noi come Filcams CGIL dell'Emilia Romagna, unicamente alla CGIL dell'Emilia Romagna, tutti gli anni noi mettiamo in campo un'iniziativa sui territori della costa a favore della legalità del lavoro del turismo, e tutti gli anni ci ritroviamo alla vigilia della campagna estiva con le imprese del settore e le associazioni di categoria del settore che lamentano il fatto di non riuscire a trovare personale a sufficienza. Tra l'altro parliamo anche di numeri importanti, perché da un articolo uscito qualche giorno fa sulla stampa si parlava del fatto che mancano almeno 3.000 lavoratori stagionali nel settore del turismo. Tra l'altro riferito questo solo alla provincia di Rimini, per cui se parliamo di tutta la costa emiliano-romagnola parliamo di numeri superiori. Si puntava anche sul fatto che manca molto personale qualificato. Ecco, allora noi abbiamo ritenuto doveroso intervenire proprio per fare alcune precisazioni, perché non possiamo pensare che tutti gli anni questa litania continui e continui questa lamentela da parte delle imprese del settore e delle associazioni di categoria sul fatto che non si trova personale. Innanzitutto bisogna capire per quale motivo non si trova personale, quali problemi ci sono nel lavoro stagionale e in quale modo poter intervenire, perché è evidente che se c'è un problema di questo tipo bisogna anche trovare le modalità e le soluzioni e i percorsi per intervenire correttamente. Perfetto, allora per prima cosa le chiederei proprio, diciamo, se può darci una fotografia di quello che voi come sindacato vedete del mondo del lavoro stagionale. Esperienza che abbiamo come organizzazione sindacale di categoria, intanto rileviamo molte problematiche che ci sono riferite al lavoro stagionale. Noi abbiamo le nostre sedi territoriali che in un anno come quello che è appena passato, nel 2018, hanno affrontato almeno un migliaio di casi di vertenze, di contenziosi nati a seguito di rapporti di lavoro stagionali, contenziosi che sono principalmente dovuti a recupero crediti, quindi alla non corretta applicazione delle tariffe derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ma anche quella di secondo livello, ore di straordinario non pagate adeguatamente, rapporti di lavoro che si svolgono, come noi diciamo, in grigio, cioè ovvero una parziale regolarizzazione, ma con una di lavoro che supera nettamente quella che è la regolarizzazione fatta. Abbiamo poi anche casi di licenziamenti motivati, casi di licenziamenti fatti verbalmente. Abbiamo un contenzioso elevato anche sulle condizioni di lavoro e soprattutto sulla mancata fruizione del riposo settimanale. Ecco, se noi teniamo in considerazione tutte queste situazioni, forse capiamo perché sia complicato trovare dei lavoratori che siano disponibili ad affrontare una stagione estiva. È evidente, il lavoratore deve lavorare, va a lavorare, ma deve anche essere messo nelle condizioni di lavorare regolarmente e di essere retribuito adeguatamente per quello che fa. Poi sulla questione della difficoltà nel reperire personale qualificato, personale professionalizzato, mi viene da dire, chi è che deve professionalizzare e qualificare i lavoratori se non le imprese stesse? Le imprese cercano e sperano di trovare qualcuno che sia qualificato da altri per poi utilizzarlo a loro volta. Forse non è questa proprio la strada giusta da percorrere, ed evidentemente bisognerebbe fare qualche ragionamento più approfondito su quella che è la formazione. La formazione ha dei costi, è vero, però la formazione serve a qualificare personale. Sì, diciamo tra l'altro una formazione mancata che probabilmente deriva proprio dalle condizioni appunto di quello che è il mondo del lavoro in questo settore da anni ormai. Sì, la condizione è complicata da anni, non sono assolutamente novità quelle di oggi, cioè non è che questi problemi sono di oggi, ma questi problemi si protraggono nel tempo proprio perché c'è una storia anche pregressa di difficoltà all'interno di quell'attività lavorativa. Noi abbiamo avuto in passato anche un elevato ricorso all'utilizzo dei voucher, strumento di retribuzione che andava fuori da quelle che sono le norme contrattuali, quindi la possibilità di utilizzare lavoratori senza assumerli e senza fargli un contratto ma pagandoli in voucher. Ecco, oggi si pagano anche le conseguenze di questo atteggiamento che le imprese del settore in grande maggioranza, non tutte ma in grande maggioranza, hanno avuto questi anni nei confronti dei lavoratori stagionali. Ecco, parlando quindi di voucher, poi anche voi segnalavate anche il fatto che si ricorre sempre più ad appalti, quindi diciamo ad assumere tramite terzi. Questo chiama in causa anche tutta una serie di scelte politiche, quindi le chiederei anche secondo voi se ci sono delle scelte poi politiche che andrebbero messe in campo. Il ricorso ai lavoratori in appalto, quindi ad utilizzare imprese che erogano lavoro e lavoratori andando anche al di fuori di quelle che sono le norme e la legalità, perché un conto è parlare di lavoro interinale, un conto è parlare di esternalizzazione e di affidare ad altre imprese, per lo più cooperative, anche finte cooperative, pezzi caratteristici della attività. attività alberghiere in particolare, ma anche di altre attività. Ecco, anche questo è un altro tema che va attenzionato, che va seguito con la massima attenzione da parte di tutti, cioè non da parte solo delle organizzazioni sindacali, e noi giustamente cercheremo di fare quello che a noi compete, di metterci il massimo dell'impegno per cercare di contrastare queste forme di sfruttamento. Però è chiaro che qui l'attenzione va tenuta alta anche da parte delle associazioni di categoria, da parte delle istituzioni, delle amministrazioni locali tutte, e in particolar modo anche da parte della regione, perché io credo che un'attenzione su questo tema sia, come dicevo prima, necessaria da parte di tutti i soggetti che sono interessati a quello che è il turismo, perché in fondo il turismo, non dimentichiamolo, rappresenta il 12% del PIL di questa regione e quindi un settore economico estremamente importante e come tale deve essere considerato.